140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Un successo travolgente con i Lost, poi un periodo di silenzio. Ora con Sono qui, torna come solista. Walter Fontana. Dopo un'avventura importante come quella dei Lost, tornare è stato un momento molto importante per me. Ho passato un momento di crescita che mi ha permesso di migliorare sia come persona che come artista. Questa pausa è servita per ritornare molto più forte. Una pausa nella quale hai avuto dubbi, hai avuto paure o hai sempre avuto la consapevolezza che era una pausa per tornare? Ma i dubbi e le paure ci sono sempre, perché comunque del futuro non si è mai certi, quindi si andava avanti con la convinzione di voler migliorare, di voler scrivere un gran disco che rappresentasse la persona che ero in quel momento e quella che mi rappresenta in questo momento. Quindi Sono qui, che è già un titolo, che è un manifesto. Fermo. Sì, è un punto fermo per dire sono tornato e sono qui e forse non me ne sono mai andato. Quando tutto è perfetto, io non lo sono mai. Mantengo le distanze da ciò che mi fa stare bene. Le scale per il paradiso le ho perse già da tempo, ma i gradini per l'inferno sono sempre qui con me. Perché nonostante tutto, io ripenso a noi due distesi al buio per proteggerci dal mondo. Questa stanza è così vuota, è il tuo abbraccio che mi manca, ma da solo contro il vento. Una delle cose che tu hai dichiarato è: adesso devo farmi conoscere come Walter Fontana e non Walter dei Lost. Devi esatto. Riappropriarti anche del tuo nome. Esatto, sì, perché tutti mi hanno sempre conosciuto come Walter dei Lost, chiaramente. E quindi adesso è un momento molto importante, chiaramente non è facile, però bisogna andare avanti a testa bassa e farmi vedere il più possibile, soprattutto nei live, perché comunque è lì che io trasmetto ancora di più quello che sono. Quando sono sul palco mi trasformo, divento da persona timida che sono durante il giorno, lì faccio di tutto, partono le mie pazzie, mi arrampico, mi butto in mezzo alla gente e trasmetto le emozioni cantando. Visto che hai detto live, hai fatto uno street tour e un contest per dei live a domicilio. Esatto. Noi ci stiamo incontrando prima di un in-store, al di là del fatto che sono tutte parole straniere, vuol dire che stai incontrando la gente poco a poco per ritrovare il contatto. Esatto, sì, perché comunque questa è la cosa più importante. Al giorno d'oggi il mercato è molto saturo, soprattutto per chi nasce da internet, perché comunque la mia storia è partita tutta da lì, dal web. Quindi per farsi conoscere, oltre ad usare il web, bisogna andare nella strada e quindi incontrare veramente faccia a faccia ogni persona che ha ascoltato Walter prima nei Lost e quello che andrà ad ascoltare adesso. Visto che hai detto questa cosa del nascere da internet, c'è differenza tra il nascere da internet come l'hai definito tu e ad esempio avere subito la grande popolarità di un talent? Ti sei mai fatto questa domanda? Sì, beh, chiaramente il talent show è una vetrina molto importante che ti dà una spinta iniziale incredibile, cioè milioni di persone ti vedono e si affezionano a te, perché comunque non stai lì un giorno ma sono settimane e mesi, quindi hai tutta un'altra spinta rispetto magari a quello che può dare internet. Però chiaramente è una strada anche quella lì, secondo me, molto difficile, perché poi devi saper mantenere questa popolarità. E come dico sempre, la cosa più importante è scrivere le canzoni, perché quelle ti permettono di andare avanti anche quando magari la promozione subito dopo il programma finisce e arriva il cantante successivo. Anche se il cuore ha speso troppo, non rimpiango niente, quello che sono lo devo pure a te, e guardo queste mie ferite. sometimes it's hard to go on. I'm falling down, slipping, reminiscing, tripping and falling. Looking to the skies, arms wide, eyes blurry, tears pouring down, thinking of you. But it's got my head spinning, these times are blue. It's so hard to shine light into corners. Un sacco di collaborazioni importanti sia nel disco che nei video, perché so che ce ne sarà più di uno, anche singolari. Sì, partendo da Giovanni Caccamo, un grande amico che ha collaborato con me nel disco, Vittorio Brumotti, che ha appoggiato la sua bicicletta per un giorno e le sue pazzie, ha deciso di fare la regia di questo mio nuovo video perfetto, che si può trovare su YouTube, e poi anche con Matt e Bise sto lavorando anche con loro, nel senso che stiamo facendo diversi in store insieme e ci stiamo divertendo molto, perché sono due pazzi e speriamo che magari in futuro possa nascere qualcosa di più rispetto all'in-store vero e proprio. Quindi anche con loro la potenza della rete, perché ormai è... Eh sì. Rispetto a quando avete avuto successo con i Lost, il mondo è cambiato, anche se in pochi anni, completamente da questo punto di vista? È cambiato perché quando siamo nati c'era un social network, adesso ce ne sono tanti, troppi. La cosa importante secondo me è rimanere con i piedi per terra e cercare di anche attraverso la rete mantenere un rapporto molto vivo e con chi ti segue. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Walter Fontana. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.